Salve a tutti, gentili ascoltatori e ascoltatrici, siete sempre su Absolute Beginners, qui è Babe. Qui è Sassà. E questa volta siamo a Los Angeles, ancora. Siamo tornati a Los Angeles e abbiamo tanto da dire. Beh, sì, perché i Fear, parleremo di loro quest'oggi, sono un gruppo che raggiunsero una notevole notorietà, perlomeno nel 1981-82. Non so quanti di voi, di nuovo, è la classica domanda che faccio sempre, abbiano mai ascoltato i FIA. I FIA negli anni, immediati anni 80, grazie anche a un documentario chiamato The Decline of Western Civilization, divennero piuttosto famosi. Sì, Babe, e oltre a questo sono un gruppo al quale entrambi siamo legati, ci piace da morire, quindi gentili ascoltatori e ascoltatrici, non vediamo l'ora di farvelo sentire, e iniziamo subito. She don't like junkies, she don't like drunkies. She just wants man to speak for money. Beh, eccoci qua allora, pronti via con i primi due pezzi di questo album del 1982, The Record, adesso ne parleremo. I primi due pezzi, Let's Have a War So You Can Go Die, così tu puoi morire, dicono i testi del brano, e poi Beef Bologna, che ci stiamo chiedendo, Babe, ma che cavolo, come sì, venuto in mente Living, cantante di Fear, cantante di Fear, intitolava una canzone Beef Bologna, forse gli piaceva la mortadella? Non lo so, ma mentre stavamo ascoltando abbiamo usato la parola dementi, e forse è una parola che ritrae abbastanza bene il quartetto in questione. Diciamo che il nonsense per i Fear era, come dire, all'ordine del giorno, anzi forse furono tra i primi gruppi punk a non prendersi completamente sul serio e a usare tantissimo il nonsense. Yeah. piacciono i sassofoni, Sasà? A New York? Non male. Beh, allora puoi andare a New York a questo punto. Il titolo di quest'ultimo brano era appunto New York's Alright If You Like Saxophone. Beh, altrimenti... avete sentito? Ah, non ho idea. Bisognerebbe chiedere a Lee Ving, cantante dei Fear, che tra l'altro non penso sia, come dire, un tipo proprio di quelli trattabili a modo per bene. Beh, basta vedere la scena del loro concerto, del documentario che hai nominato prima, The Decline of the Western Civilization, e la leggenda narra che Penelope Spheeris, che era una regista, incontrò i ragazzi a Los Angeles in giro e gli chiese se volevano fare parte di questo documentario, che è una testimonianza bellissima della scena hardcore di Los Angeles dei primi anni Ottanta, dove figurano i Fear insieme a gruppi classici dell'epoca come Black Flag, i Germs, gli X, i Cycle Jacks. Do you wanna join? Why not? We'll be right back. Beh, i temi sono quelli classici dell'hardcore, quelli che, di cui cantava anche Gelo Biafra con i Dead Kennedys poche miglia a nord, a San Francisco. Ma qua l'idea, diciamo che San Francisco, a San Francisco i Dead Kennedys mettevano tutto a Berlino in maniera molto sarcastica, ma politica, quindi in maniera seria. I Fear danno invece l'idea di prendere proprio tutto e tutti in giro e senza nessuno a... possibilità di redenzione. A questo punto buttiamolo in cagnara. Assolutamente, loro volevano farsi odiare. Quando suonavano dal vivo volevano agitare il pubblico, provocandolo, sputando, menandolo. E sono delle scene in questo documentario, infatti la puntata è sia ovviamente il focus è sull'album The Record, però raccomandiamo a tutti i nostri ascoltatori anche la visione di questo bellissimo documentario, testimonianza, dove i Fear, se non sbaglio, sono l'ultimo gruppo che viene riprodotto, che il loro concerto viene appunto fatto vedere, è molto violento. Tutta Los Angeles in quegli anni, Huntington Beach, Orange County, era piena di, come dire, thugs, o come li chiamano gli americani, comunque uricani, o giù di lì come li chiameremmo noi. Sì, e tra l'altro mi fa ridere, nelle interviste vediamo Lee Ving, che abbiamo già nominato, semplicemente perché è l'unico membro che in pratica è one man band dietro il nome Fear. Diceva che andavano a suonare a Los Angeles, dicevano che erano di San Francisco, dicendo che Los Angeles faceva cagare. Poi andavano a suonare a San Francisco, venendo da Los Angeles, dicevano che San Francisco faceva cagare. Loro proprio volevano istigare il pubblico in modo tale da caricarsi e fare questa performance. E prendere mazzate. Esatto. eccoci ancora qua con i Fear. E il primo di questi tre brani che abbiamo ascoltato si chiama I Love Living in the City, che è stato il loro primo singolo datato 1978. E in pratica questi ragazzi, prima di riuscire a pubblicare l'album con la Slash Records, semplicemente scrivevano canzoni e andavano in giro a suonarle per tutta la West Coast, per la California. E chissà che paesaggi urbani hanno visto, dato il tema della canzone: gente che vomita, troie, scarafaggi sul muro, gente che muore per strada. Gente che muore per strada. Doveva essere un bel posto Los Angeles, insomma, di 40 anni fa. Che bello living in the city. Addirittura la chitarra è morto, non diciamo campana è morto, ma insomma timbro funereo di questo disco comunque c'è, come dire, sì, è ironico, ma non è certo un disco allegro. La musica di plastica californiana, ma non solo, degli anni Ottanta, non era certo rappresentata dai FIA. No, ma le liriche Babbe sono allucinanti. Abbiamo ascoltato adesso Fresh Flesh, che dice I wanna fuck you to death, peace on your wailing grace, I just want to come in your face, I don't care if you're dead. Che al momento non traduciamo, lasciamo ai nostri ascoltatori magari capire un pochino. Beh, però, avrete capito, non è esattamente una favola dei fratelli Grimm. No, non siamo, non è Alice nel Paese delle Meraviglie. E non penso che neanche mai le avessero lette. Siamo ai saluti con una meravigliosa Fuck Christmas. È già passato, ma ci sta sempre bene un bel Fuck Christmas. Poi si è urlato dai Fear. Ricordiamo, l'album si chiama The Records. Non esinavano certo in fantasia. No, e comunque passa, che una bellezza. 27 minuti se non sbaglio. 27, quindi brani laceranti, veloci, scottanti, che colpiscono e a noi piacciono da morire. Un'altra band che avremmo voluto vedere live, ma serve la macchina del tempo come servirebbe, la macchina del tempo come ritorno al futuro, si bisognerebbe tornare dietro proprio di 40 anni. E con questa vi salutiamo, alla prossima, ciao Sasà. Ciao Babe, ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di visitare il nostro blog neverbeginners.blogspot.com e noi ci sentiamo presto. Alla prossima! Alla prossima!